Allora, buon pomeriggio a tutti e a tutti quelli che ci ascoltano, a tutti quelli che ci ascolteranno, perché noi qui siamo gente della fantascienza, quindi pensa già subito al futuro. Sono Fulvio Gatti, questa è Sono Solo Nuvolette, ed è una nuova trasmissione che tutti i martedì pomeriggio alle 15 vi terrà compagnia. Parleremo di fumetto, genere fantastico, letteratura, narrativa fantastica, cinema e tutto quel calderone che è la cultura pop. Abbiamo il piacere e l'onore per questa prima puntata di ospitare qui Maurizio Manzieri. The Man, io lo chiamo perché è un grande amico e un grande artista, forse uno dei più talentuosi e conosciuti nel mondo. Come sempre c'è qualche piccolo problema di comunicazione tra il resto del mondo e l'Italia, per cui Maurizio è molto più famoso all'estero che in Italia, ma queste sono piccolezze. Maurizio è il copertinista di The Magazine of Fantasy and Science Fiction, che è una delle più importanti, forse la più importante rivista di fantascienza americana, e di Esimo Science Fiction, che è l'altra importante rivista di fantascienza americana. Ha fatto le copertine per Terry Brooks, per Clive Cussler, Tad Williams e molti altri scrittori. Ed è un piacere averlo qui con me, alla mia sinistra. Ciao. Ciao a tutti, ciao, I'm the man. Buongiorno Maurizio. E grazie ad Alessandro Gennaro in regia, che ci ha accolti e ci darà una mano alla console, non so come si dice in gergo tecnico, in mixer semplicemente, certo, io sono ancora fermo alla console perché per me era l'8 bit il Nintendo, comincio a essere diversamente giovane. Caro Maurizio, giusto per cominciare, per introdurre, che cos'è per te l'arte digitale e come sei arrivato a essere un artista digitale, comunque tra i più noti, tra gli italiani più noti a livello internazionale? L'arte digitale è per me un mezzo attuale, come poteva esserlo negli anni passati l'aerografo, i pennelli. Ogni epoca storica ha avuto i suoi strumenti innovativi e andando avanti nel tempo potremmo anche dipingere con dei pennelli virtuali. Ci sono già tecnologie in arrivo, sempre più. Io ho scelto questa tecnologia perché viaggio molto, mi consente di esprimere il mio bagaglio tradizionale attraverso i nuovi mezzi che ci fornisce l'informatica moderna. Attualmente con il nuovo mondo, quel che viene chiamata l'Electronic Age, siamo ormai nel pieno dell'Electronic Age, è possibile conversare con editori di altri paesi, cosa che prima poteva avvenire soltanto per corrispondenza. Io adesso posso collegarmi con Skype o con Hangout di Google o con qualsiasi altro mezzo, anche telefonicamente, con un editore discutiamo. Lavoro soprattutto per gli Stati Uniti, che hanno una mentalità molto diretta, imprenditoriale, dinamica. Gli piace un artista e immediatamente ti contattano, ti vogliono per dei progetti e questo ti apre ovviamente la possibilità agli americani non interessa se tu vivi in Italia. Ecco, io potrei essere già essere un emigrante, cioè parlare in questo momento, certo, da Los Angeles. Logicamente bisogna possedere una notevole padronanza della lingua inglese, soprattutto che ormai è una lingua, sicuramente la lingua mondiale, internazionale, la lingua franca internazionale, certo. Ecco, loro già lavorano, l'America è già grande di per sé, per cui se molte case editrici, per esempio, si trovano, passiamo a New York, loro già lavorano con molti artisti che risiedono, non so, San Francisco, Los Angeles, cioè quattro fusi orari. Per loro trovare un artista che abiti in Italia o in Malesia, eccetera, indifferente. Loro, certo, cercano, io voglio quella persona, poi tu puoi prendere l'aereo, andare un attimo, ma puoi lavorare come se il mondo fosse ormai una sola città. Esatto, è un'innovazione dei nuovi mezzi di comunicazione, da internet in avanti sicuramente il mondo è diventato un po' più piccolo e chi è in grado di proporsi all'interlocutore giusto in genere ha successo, ci arriva. Uno dei motivi, forse il motivo preponderante per cui ho scelto l'arte digitale, è che io lavoro molto nel settore editoriale, dove la trasmissione di file già ottimizzati, preparati per la stampa è fondamentale, quindi bisogna essere advanced, tecnologici, quindi io preparo le mie cover, anche se ci sono alcuni colleghi che continuano a lavorare in manuale, ma anche loro le devono scansionare con degli scanner, non il classico scanner che si compra da 100 euro, certo, ma andare in day service e fare scansionare la tela pittorica ad oli, ad acrilici, e trasmettere un file ad altissima risoluzione. E poi soprattutto gli editori chiedono continui cambiamenti, quindi anche se c'è un originale, a livello editoriale va cambiato continuamente. Non, certo, è difficile che al primo colpo si indovini, ed è difficile poi applicare sul manuale continui cambiamenti, cosa che invece non ha importanza se si lavora per sé oppure... Certo. Ecco, nello stesso modo comunque, sia lavorando a livello editoriale o personale, si può comunque diventare una firma, cioè acquisire una notorietà a livello internazionale, per cui diventa poi una scelta di vita quale settore approfondire, intraprendere. È questione di tecnica, di per sé c'è l'arte e poi ci sono gli strumenti che si sceglie di utilizzare per l'arte. In questo caso gli strumenti digitali, ecco, sono uno strumento. Ecco, io preciso che parto dal manuale. Ecco, non l'arte digitale, la maggior parte delle persone, del pubblico che non è del settore, pensa che il computer fornisca la bacchetta magica, qualche ingrediente strano, particolare, un'alchimia, eccetera, mentre invece non è così, perché tu devi essere già tu a avere la visione e fornire all'editore quello, se sei un cliente, quello che lui ti richiede per quella specifica commissione. Quindi nel mio caso io leggo effettivamente le opere letterarie che andrò a riprodurre, eccetera, e poi la tua visione la devi trasformare in un'opera pittorica che sia esteticamente soddisfacente e che magari non sia distinguibile da un'altra opera realizzata con tecniche tradizionali. Certo. Io per esempio utilizzo un software per antonomasia, cioè il software digitale, perfetto, che è nato a ormai tanti anni, più di 25-30 anni fa, come software più utilizzato dagli artisti contemporanei attualmente, è Photoshop. Photoshop è nato come un software di fotoritocco, un software quindi per addetti ai lavori nell'ambito della fotografia, ma poi si è visto che poteva benissimo sostituire la tela e simulare con pennelli digitali creati ad hoc, simulare proprio le tecniche a olio o acrilico. Ma è fondamentale per l'illustrazione digitale avere comunque una risonanza analogica, se capisci cosa intendo, non apparire troppo digitale. Sì, certamente. Bisogna, intanto io lavoro spesso a risoluzioni altissime, proprio perché cosa che è perfettamente fattibile con i computer sempre più potenti, cioè lavorare su dei canovacci digitali immensi, in modo che non si percepiscano i pixel. In genere gli editori chiedono una risoluzione standard per la stampa di 300 punti pollice, queste sono tutte terminologie tecniche, eccetera, certo, ma in base alla dimensione, se la copertina di una piccola rivista c'è una dimensione che può essere gestibile da un piccolo computer, logicamente se si deve realizzare un poster cinematografico in cui c'è una marea di personaggi e va lavorato nei mini dettagli, bisogna lavorare anche a risoluzioni più alte, anche su superfici abbastanza. Immagino che 300 punti per pollice sia la risoluzione finale del prodotto finale, ma sì, tu devi lavorare a risoluzioni molto più alte. Non è necessario, lì vai a lavorare poi col pennellino di finitura su tutti, certo, i dettagli, certo. No, alla fine sì, dipende sempre dall'utente finale che cosa ti chiede, perché... capito. E lavorare per comunque queste case editrici americane è qualcosa di molto impegnativo, nel senso hanno questo spirito imprenditoriale, se gli piaci ti fanno lavorare, ma ti chiedono anche moltissimo, giusto? È come al solito, tutto domanda e offerta, cioè tutto è proporzionato al cliente e la libertà che hai d'azione è proporzionata anche a quanto ti pagano. Assolutamente. Ecco, se devi realizzare una cosa così amatoriale, una cartolina, un prodotto così più semplice, e ovviamente in proporzione vieni pagato poco, e il cliente, sì, dovrebbe saperlo, eccetera. Poi sì, puoi anche rifiutare il lavoro, certo. Ma in genere case medie o case importanti c'è un, chiamiamolo, una sorta di tariffario internazionale, e ci sono delle, c'è per esempio un'associazione cui ho aderito, molto interessante, c'è anche il sito artpact.com, che non è un sindacato vero e proprio, infatti all'inizio avevano un po' paura di proporsi, ma è un'organizzazione a tutela del, internazionale, nata in America, a tutela degli illustratori, che, a cui viene concesso spesso uno spazio in tutte le convention, e che sta mediando per un tariffario migliore nei confronti tra gli illustratori e i clienti. Per esempio, certo. Una società molto ricettiva, molto a favore degli artisti, è The Wizard of the Coast, che addirittura hanno, in accordo con Art Pact, hanno aumentato le tariffe. Wizard of the Coast è il maggior produttore di Magic Cards, certo. Per i giochi, giochi di ruolo, eccetera, creazioni di universi. Certo, e approfondiamo poi dopo anche questa componente professionale che sicuramente può avere delle persone interessate, degli ascoltatori interessati. Adesso facciamo un piccolo break, lanciamo una canzone. Mi piace fare una trasmissione di fumetto, buon contenuto, buona narrazione, ma anche buona musica. Purtroppo buona musica secondo me. E cominciamo con I Want You Back, che è un pezzo dei Jackson 5, Michael Jackson quando era molto molto giovane, un pezzo che è tornato in auge e si sente molto in questo periodo, secondo me, poi in una pubblicità di un noto prodotto internazionale, ma secondo me è tornato in auge anche da noi grazie a un certo film che si chiama I Guardiani della Galassia. È stato, I Guardiani della Galassia è stato il film di maggiore successo sul mercato americano nell'ultima stagione, e ha questa scena molto simpatica in cui... Ok, siamo tornati in onda su Sono Solo Nuvolette, programma nuovo qui su Radio Archimede. Il sito è www.radioarchimede.it, da cui potete ascoltare in streaming la trasmissione, e poi la troverete anche in podcast se ve la siete persa. Saremo qui tutti i martedì alle 15. Ringrazio Alessandro Gennaro di Line Regia, Cosimo Amendolia che mi ha dato questa opportunità, e torniamo a parlare con Maurizio Manzieri, illustratore digitale tra i più noti nel mondo, purtroppo non abbastanza qui in Italia, ma questo è sempre... ci scherzavamo già un attimo fa. Una cosa interessante dell'illustrazione digitale è sicuramente la tecnica. Maurizio, tu come comincia una tua illustrazione? Nel senso, tu ricevi la committenza, e come procede il tuo lavoro? Nel senso, come nasce? Allora, funziona in questo modo. Un editore ti sogna, pensa gli piace il tuo stile, ti logicamente magari ti ha visto da qualche parte, ci sono, oggi c'è un'inflazione, c'è un numero incredibile di artisti, perché poi l'arte digitale, la comunicazione mondiale ha aumentato a dismisura incredibile la disponibilità sul mercato, infatti per mantenere l'offerta devi essere proprio richiesto, perché hai conservato un tuo stile personale, un po', certo. Un nome che viene ricordato. La competizione internazionale. C'è una competizione, ma soprattutto di una marea di bravissimi artisti che stanno arrivando dalla Cina, dalla Russia, dalla Corea. Caspita. Una invasione totale, sono bravissimi. Ma gli italiani hanno qualche carta in più. Piace tanto lo stile italiano. Infatti c'è molti art director in America che sono italiani, che si sono trasferiti lì. Perché, non so, l'Italia, per quanto, ecco, più famosi all'estero, sì. Però conservano questa nomea di essere esperti intenditori, di avere un gusto per loro esotico, questo gusto, vengono tutti qui turisti a vedere le nostre strutture, chiese, monumenti, certo. Eccetera, e quindi noi siamo considerati, anche se a livello, diciamo, commerciale si è persa un po' questa cosa, perché in Italia c'è un po' più crisi e tutti questi settori dell'entertainment sono un po' molto sottotono, la crisi a livello mondiale, sì. Comunque, ma comunque all'estero è molto più sviluppato, mercato cinematografico, mercato dei videogiochi, dei game, tutto quello, l'industria importante che poi andiamo a vedere tutti. Sì, beh, si è lavorato più coscientemente sulla costruzione di industrie autonome, ecco. Allora, magari hai la fortuna di aver lavorato bene. Logicamente non è che ti chiamano così all'improvviso tu esci, buongiorno, ti devi un po' costruire un'immagine, un certo. po' quello che fanno tutti, cioè gli artisti o chi si vuol proporre, si fa un proprio sito, una paginetta, si inizia a far vedere in giro, inizia a pubblicare qualcosa, a costruirsi un po' il curriculum, certo. ecco. Quindi una volta che riesci a fare la scalata, viene in genere a livello internazionale, anche per quello che dicono gli art director, si giudica che l'artista medio può raggiungere un apice interessante della carriera dopo almeno 5 anni di lavoro. Ecco, quindi è da precisare che non è qualcosa che avviene così come all'improvviso, certo. come in tutte le attività. È un investimento di notorietà. Esatto. A questo punto un editore quando decide di chiamare la firma a fare una copertina, lui chiaramente deve vendere anche milioni di copie, quindi certo. vuole andare a colpo sicuro, non puoi sbagliare nulla, certo. devi rispettare, devi essere già famoso, aver pubblicato ti aiuta perché vuol dire che già altri ti hanno sperimentato e se sei uscito, non so, su un quotidiano, su una copertina di un editore importante, vuol dire che è automatico che hai fatto gavetta, quindi sei bravo certo. nel rispettare l'etichette, tutte quelle caratteristiche che costituiscono gli elementi essenziali di questo lavoro, cioè precisione, rispetto delle scadenze. Allora ti chiamano, ti chiedono se hai il tempo, se tu puoi inserire nella scaletta del tuo studio, dei tuoi lavori, una produzione per loro, cioè in modo molto di classe, molto raffinato, certo. magari anche più si va, sale su, più si lavora a livello professionale. Partono dal presupposto che l'artista sia una persona organizzata. Ecco, quindi anche negli Stati Uniti spesso magari se mi commissionano una cover mi danno anche 2 mesi di tempo, 3 mesi di tempo, se c'è un'urgenza magari te lo fanno presente, però puoi avere anche 6 mesi di tempo, certo. e perché così tu sei un professionista, stai lavorando, loro ti vengono a chiamare da professionista, immaginano che non è che arrivano all'improvviso e vogliono, come mi è capitato purtroppo per delle produzioni diciamo europee se non italiane, mi è capitato, mi servirebbe, puoi farmela per ieri subito, così vabbè. Poi magari uno accetta all'inizio, così cioè. Però poi bisogna lavorare professionalmente e strutturarsi. Ma uscendo dal luogo comune, italiano o non italiano, penso che il discorso sia solo la percezione del valore di un prodotto, sì. perché in realtà tu quello che dai è un prodotto. Certo, certo. E una volta che tu hai accettato magari di illustrare un racconto, un romanzo, io lavoro sempre così, mi inviano il manoscritto, il romanzo, e io spesso leggo un estratto oppure addirittura leggo tutta la storia del romanzo stesso, presento una serie di bozzetti e ci sono delle varie fasi abbastanza standardizzate che riguardano non solo me ma tanti colleghi, tanti artisti internazionali, e con un art director si discute man mano delle varie fasi di lavorazione, per cui si può partire da una bozza a matita, un bozzetto, un acquarellato in bianco e nero, un qualcosa di più, un raw color sketch un po' più avanzato, e si raggiunge gradualmente. Si può essere la creatività, se sei abbastanza bravo puoi far filtrare la tua bravura, la tua idea, per creare poi al di fuori del contesto del romanzo un portfolio coerente, certo. perché altrimenti ti possono anche chiedere qualcosa che sia molto specifico e attinente all'opera editoriale. Certo, certo. Quindi si cerca, questa poi è una scelta tua, o di far più portfolio, non so, il portfolio fantasy, il portfolio dei giochi di ruolo, il portfolio fantascienza, e poi alla fine il lavoro viene definitivamente approvato e niente, come si fa la fattura, come in Italia. Certo. Sei anche tu artista che puoi scegliere quanto cambiare il tuo stile per andare incontro al cliente, e che questo non lo sia troppo, che il tuo variare lo stile, ma non, diciamo, esca al di fuori del tuo, della tua personalità. Dicevo a livello di visualizzazione di compositiva, a livello certo. di immagini, non so se tu sei conosciuto come scrittore di fantascienza e poi esatto. fai un romanzo d'amore e non c'entra nulla. All'interno di un'industria culturale ci si aspetta che la tua produzione genere, sia all'interno di certi canoni. In genere certi editori, esatto, e poi è te nella costruzione della tua carriera, nei primordi diciamo, sì, della tua esatto. carriera, sta a te farti decidere o esatto. dare un indirizzo per cui gli editori o gli art director di un determinato settore ti contattano sì. perché sanno che tu sei uno specialista e esatto. vanno quasi a colpo sicuro, non so, esatto, uno scrittore di fantascienza che magari ti vuole ingaggiare per una sua copertina, ti dice voglio Manzieri, perché esatto, lui sa fare le donne cyborg, le astronavi, i paesaggi futuristici. Ha visto determinati elementi che gli sono piaciuti e vuole quegli elementi, chiaramente con l'elemento di creatività, esatto, con legati alla sua personale creatività anche. Esatto. Poi come strumenti di lavoro, diciamo, ecco, molti si domandano, ma per diventare un artista digitale, ecco, oggi è alla portata di tutti. Ripeto, diventare un artista digitale è la creatività, quella che manca. Cioè non basta avere il computer. Ok, beh, certo. Quindi, e non basta... Continuavamo a dire che il computer è uno strumento, e non basta avere il software, Photoshop, okay, un software adesso l'Adobe ha creato la Creative Cloud, praticamente è alla portata di tutti con un piccolissimo abbonamento mensile, si certo, possono pagare qualche decina di 10 euro, 12 euro per avere la console base, e con tutti gli aggiornamenti, e utilizzare dei programmi che costavano migliaia e migliaia di euro, e quindi un piccolo investimento, perché non, mi sembra che non si venda più nemmeno separatamente. Comunque, al di là del software, il software ti può dare anche una pagina bianca su cui poi tu, con i pennelli a disposizione, che possono essere la matita o il pennello o l'acquerello, inizi a creare il tuo disegno, strato dopo strato, proprio dipingendo a colori. Photoshop funziona come le tecniche dei cartoni animati, come se ci fossero tanti acetati trasparenti, fogli trasparenti uno sopra l'altro, e tu puoi inserire ogni oggetto su un foglio, ne puoi fare anche 100-200 sovrapposti e far scivolare uno sopra l'altro a tuo piacimento. Quindi questo, io per esempio disegno il paesaggio di sfondo su un livello, chiamiamolo livello, come se fosse i layer, tipo come una cipolla, no? Multistrato. Di per sé si può dire che tutti questi strumenti digitali si sono sviluppati in base agli equivalenti analogici. Esatto. Cioè, esatto. Sì. Si disegnava su più livelli. Esatto. Nell'animazione, in certe forme d'arte. Ecco, prima gli strumenti, il costo di una strumentazione del genere andava su decine di milioni, quando c'erano ancora le certo, lire. Adesso basta poco, almeno per dipingere. Se si va invece su animazioni o tecniche tridimensionali, ci sono stazioni, workstation di costo molto più elevato. Ma un computer oggi, io lavoro in particolare su Macintosh, su piattaforme Macintosh, basta comprare c'è da spendere, ovviamente, non è che certo, se si vuole un prodotto di qualità, eccetera, si può lavorare benissimo anche col PC. Sì, beh. Ho un iMac, un costo di un iMac va dai 1200 ai 2000, ben potenziato, software Photoshop, poi nulla col mouse, è un sacrilegio. Ah, ok. Ecco, ci sono delle tavolette grafiche, io utilizzo una tavoletta Wacom, anche vecchia, poi okay, questi sono tutti prodotti indistruttibili, durano sì, negli anni, quindi okay, non è che bisogna ogni anno cambiare, durano... Sono i tuoi pennelli, sono questi. I miei pennelli. E c'è una penna ottica in cui okay, ogni punto sullo schermo della tavoletta che è poggiata sul ripiano corrisponde a un punto dello schermo. Okay. Per cui io traccio il pennello, la penna la tiro come il pennello sulla tavoletta e vedo con gli occhi sullo schermo che si traccia. Alcuni colleghi si trovano a disagio, specialmente i fumettisti, con questa tecnica, per cui esistono ancora degli strumenti più versatili, eccetera, sempre della Wacom, le cosiddette tavolette Cintiq, la marca, che ti permettono di disegnare direttamente sulla tavoletta. Ma come okay, sono uno schermo sensibile al tocco, collegato sì, allo schermo, è un doppio schermo. Certo. C'è anche quella autonoma, chiaramente i prezzi iniziano a salire, sì, e che si chiama la Cintiq Companion, che è uscita okay, non da molto, però ecco. Poi bisogna vedere nel tempo questi quanto siano poi, come dire, il software non decada, perché poi nel tempo quanto siano rinnovabili nel tempo. Questo credo... non lo so, perché io comunque utilizzo questi strumenti da oltre 20 anni, sono stato uno dei pionieri. Credo che la scelta degli strumenti faccia parte anche dello sviluppo dello stile, è un elemento fondamentale, e ci torniamo ancora dopo il break. Questa volta mandiamo un altro pezzo e qui andiamo a pescare nello strumentale. Negli anni 70 c'era un gruppo che si chiamavano i Traffic e questo pezzo si chiama Glad. Bentornati su Radio Archimede, sono solo Nuvolette, io sono Fulvio Gatti e vi terrò compagnia tutti i martedì alle 15 con questa trasmissione, nuova trasmissione. Parleremo di cultura pop, fumetto, illustrazione, c'è tanto di cui parlare. Che cercheremo di avere ogni puntata un ospite diverso, il primo degli ospiti che ci ha concesso l'onore di essere qui con noi è Maurizio The Man Manzieri, illustratore internazionale che insegna anche alle due principali scuole di fumetto e illustrazione di Torino, i Master Art e la Scuola Internazionale di Comics. Vuoi dirci qualcosa anche di questa tua esperienza come insegnante? Sì, molto, sempre molto motivante trovarsi a insegnare, essere a rapporto con i giovani, eccetera. Vedo, insegnano qualcosa anche a me, è molto piacevole questo interscambio, il desiderio, la voglia, eccetera. Io do un po' di stimoli e le domande sono quelle, ma come si diventa un artista internazionale, come si contatta un art director, come si presenta un portfolio, come si realizza un'illustrazione digitale, ci sono innumerevoli spunti di lezioni, eccetera. Ho avuto proprio due cattedre all'interno di queste scuole. Sono stato due anni, un anno ai Master Art, un anno a Scuola Internazionale di Comics. Sono sempre in contatto, loro mi vorrebbero rapire, io lo sono preso da tantissimi progetti e comunque continuo a svolgere dei workshop. Il prossimo si svolgerà presso alla fine aprile, dal 24 al 26 aprile, al Centro Internazionale del Fumetto di Cagliari, dove sarò ospite insieme a Barbara Canepa per mostrare, spiegare tutti i trucchi e i segreti più approfonditi. Sto dicendo qualcosa in questa trasmissione, ma ovviamente in ambiente più professionale, con in workshop, eccetera. Diremo anche qualcosa di più. Adesso non ci sarebbe nemmeno con il più tempo. Con più tempo e con proiettori, strumentazioni, effetti speciali, diapositive, eccetera. Certo, e tra l'altro è interessante che tu sia affiancato a Barbara Canepa, che insieme a Alessandro Barbucci sono stati i creatori di Skydoll, un progetto che è passato per Torino molti anni fa, poi è andato direttamente in Francia, poi è tornato a Torino editorialmente parlando. È un caso molto simile al tuo. Adesso Barbara Canepa vive in Francia e ha trovato un suo posto anche di rilievo all'interno dell'industria del fumetto francese. Tu hai un posto di rilievo all'interno dell'industria dell'editoria fantastica, principalmente americana. E infatti sei stato invitato a una certa convention quest'estate a Londra. Sì. Si tratta della Worldcon, giusto? Sì, la Worldcon è la convention di fantascienza più importante, una delle più importanti nel mondo, dove vengono assegnati i premi Hugo, che sono i premi in onore di Hugo Gernsback, Il più importante premio della fantascienza di tutti i tempi. Che sono i premi per la letteratura, compreso il premio al miglior artista del fantastico. E poi vengono anche assegnati contemporaneamente i premi Chesley, da Chesley Bonestell, che è un altro scienziato, astronomo e anche artista. E sono conosciuto nell'ambito, ho vinto io stesso un premio Chesley nel 2003. E sono stato spesso finalista vari anni per questi. Io non avevo mai partecipato a una Worldcon, cioè sono stato all'estero varie volte, anche per lavoro, ma non avevo mai partecipato. E ho chiesto delle informazioni, mi sono iscritto un paio di anni prima per essere presente e andare lì come turista. Vado a scrivere poi per delle informazioni, perché lì espongono opere dei più grandi artisti del mondo, ma sono mostre dove vengono anche venduti originali che vanno all'asta. Quindi c'è un prezzo, non avevo disponibilità in quel momento, mi sono trasferito completamente al digitale, per cui non ho degli originali, non ho nulla, al massimo qualche stampa, stampe a tiratura limitata, posso vendere qualcosa, ma non ho questa, e quindi il mio era un interesse così accademico, cioè volevo saperne qualcosa di più. Loro mi hanno riconosciuto che ho chiesto queste informazioni, mi hanno cominciato a scrivere 1, 2, 3, 5, 6, 10 volte, finché alla fine io ho ceduto e ho detto va bene, vengo a esporre qualcosa. E loro mi hanno detto ma tu saresti disponibile anche a partecipare? Faccio presente che mancavano 3 mesi all'inizio della convention, è una convention incredibile, gigantesca, con decine e decine di ospiti. Io ho detto ma sì, ma il tuo inglese come, sei fluent? Io ho detto ma sì, mi hanno inserito in 7 eventi di cui tre conferenze abbastanza mi hanno anche concesso uno spazio solo mio, eccetera. Quindi io tranquillamente sono andato lì e mi è stato concesso veramente spazio. Il direttore dell'art show mi è venuto a stringere la mano ringraziandomi per la rappresentanza europea, e ho addirittura vinto il premio come miglior opera presente nell'art show mondiale, la miglior opera digitale presente alla convention. Hai detto niente. Però penso che tu abbia preso contatto saggiamente tre mesi prima con l'organizzazione. Certo, ma questo per mostrare anche come ci sia questo dinamismo anche a livello proprio anglosassone. Stiamo parlando di Londra, che ovviamente sono anche loro ben inseriti, eccetera. Se entri in una libreria Waterstones a Londra, vedi che c'è un piano solo dedicato al fantastico, diviso in tanti settori. Cioè, sì, qui ci sono librerie, ma non a livello. E poi ci sono ristampe che vengono contenute, nonostante ci sia un avvento dell'ebook, non c'è questo culto, questa voglia di fare, di come andare sulla luna, no? E lì c'è. Vabbè, ma poi è questione di cultura, nel senso il fantastico è molto più presente nella cultura anglosassone di quanto lo sia nella nostra, per una serie di anche questioni, di intellettuali, il famoso disco volante che non sarebbe mai potuto atterrare a Lucca secondo Fruttero Lucentini, che ricordiamolo erano i curatori di Urania. Sì. Ho realizzato il poster a proposito di questo. E a Lucca si trova la più importante Lucca Comics and Games, che è la più importante fiera di fumetto e in senso lato di cultura pop, e Maurizio sei stato per 2 anni consecutivi ospite d'onore, giusto? Infatti l'organizzazione mi ha lanciato una sfida proprio a proposito di questo UFO che non era mai atterrato a Lucca. Hanno detto: perché non lo fai atterrare? Esatto. E vabbè, io gli ho distrutto una piazza per questo stile Independence Day, ho fatto atterrare l'UFO, ma è stato creato comunque un bel documentario a proposito, e un poster che ha caratterizzato, diciamo, la convention. Di già che lo si fa, perché non farlo in grande stile? Poi tra l'altro hai avuto danni collaterali, nel senso hai distrutto la piazza solo nella finzione narrativa. No, Luca ha avuto contatti con gli organizzatori, è stato il direttore artistico Antonio Rama assieme a Silvia Bernardi, che mi hanno curato una mostra eccezionale. Sono stato in contatto con tutti, Emanuele Vietina, tutti gli organizzatori, eccetera, e mi hanno creato proprio una scrivania di accoglienza, un ingresso alla mia mostra, dove ho potuto incontrare tanti amici. Veramente una bellissima esperienza. Certo. E altre convention, eventi nel mondo in cui sei stato, anche in passato, c'è qualche aneddoto che ti viene in mente? Ma sì, guarda, io adesso in questo momento, cioè, è abbastanza impegnativo, perché cioè, da una parte devi chiuderti come un amanuense nel tuo studio a disegnare, dall'altra ovviamente fai una specie di cernita di selezione degli eventi più importanti a cui spesso sono invitato come ospite d'onore. Non mi dispiace rifiutare e nello stesso tempo fa parte di quel gioco di coltivare le pubbliche relazioni, parte del lavoro di promozione, certo. Ovviamente non disdegno inviti all'estero e nemmeno inviti in Italia, certo. Adesso potrebbero esserci, eccetera, poi ovviamente li annuncio quando sono cose certe, ma quest'ultimo anno sono stato ospite di almeno 8 saloni. E ovviamente tutto questo comporta un po' di preparazione, quindi non mi sono fermato mai. Sì. Qualche volta cerco proprio qualche parentesi per rimanere in studio e disegnare e continuare i miei progetti, perché poi dopo sono improprio, quindi non... Perché poi bisogna comunque ritagliare lo spazio per la creatività, immagino, non è qualcosa che puoi fare... Certo. Ci sono comunque delle scadenze, anche se quelli all'estero ti danno... c'è tempo per farli, ma poi c'è tutti i progetti collaterali, coltivare la tua figura professionale oggi comporta un lavoro, tu sei il tuo, se sei da solo, anche come un freelance, ma anche se hai delle collaborazioni, eccetera, e per curare la tua figura devi comunque collegarti a qualche social network, preparare qualche comunicato stampa, far qualcosa, eccetera, tenere i tuoi fans aggiornati su quale sarà, altrimenti viene a decadere poi l'interesse, e questo vale un po' per tutto. Assolutamente. Oggi come oggi è importante sia essere un po' spigliati, oltre ad avere un minimo di bravura meccanica o talentuosa nel disegnare, ma anche conoscere le lingue ed essere un po' versatili nelle pubbliche relazioni aiuta, perché sono quelle tre, la ricetta completa per poter poter uscire, aprire la porta, entrare nel mondo. Io per esempio, ecco, ti ho portato a vedere un paio di riviste. Parlando di estero. Ecco qui, questa, ecco, mi sembra te l'ho mostrata prima ma non l'avevi vista, questa è la rivista dell'Università di Pechino. Ok, e notavo che la scrittura è un po'... Mi hanno chiamato... Faccio un po' fatica a leggere, però riconosco le tue immagini. È l'unica rivista, mi sembra un paio di anni fa, mi hanno chiamato e mi hanno dedicato un numero con un portfolio, un'intervista in cinese. Poi ogni tanto c'è qualche paese diverso che... E quindi sono tutti contatti che si svolgono via email, in inglese tutto, immagino questi? Tutto, sì, via email. Certo. Beh, e anche questo ti ha dato direi una gran bella visibilità. Certo. Poi tu hai realizzato anche un artbook, una collezione di tue illustrazioni, di tue copertine. Sì, alla fine del 2009 fu presentata a Lucca The Art of Maurizio Manzieri, pubblicata dalla Pavese Edizioni, e dovrebbe ancora essere... Sul mercato. Probabilmente ci sarà presto una nuova produzione, perché in questi anni mi sono dato molto da fare. Da allora si arricchisce parecchio il portfolio di Maurizio Manzieri. Sì, e nell'ambito delle pubbliche relazioni ho provato, mi sono cimentato anche nello spedire illustrazioni a annuari, c'è per esempio un premio importante nel mondo che è Spectrum, certo, in Contemporary Fantastic Art, credo che sia il più importante concorso di illustrazione, la più importante più rivista importante, di illustrazione. Ci sono anche altri che si stanno affacciando al mercato, come Infected by Art, sono californiani. Spectrum è un altro volume, c'è un concorso annuale in cui tutti gli illustratori del mondo mandano, specificando la categoria per la quale intendono partecipare, mandano una selezione delle loro migliori opere pubblicate l'anno precedente. Certo. E in genere vengono scelte quelle 200-300 opere, diciamo circa, le migliori da una giuria severissima tra i migliori artisti e art director del mondo, per essere pubblicati nell'annuario dell'anno successivo. Tu sei apparso più di una volta, sì, su Spectrum? Tre volte. Varie volte, cioè, insieme anche ad altri bravissimi colleghi italiani come Lucio Parrillo, Paolo Barbieri, Daniele Orizio, ora discordo qualche nome, ma ce n'è, comunque siamo quello, si contano, ecco, sulle dita di una mano, ecco. Certo. Ma massimo 10, però è un concorso, ovviamente noi siamo degli outsider, è un concorso internazionale, sì, è un concorso comunque americano, logicamente è una grande soddisfazione perché poi nell'appendice di questi libri compare il tuo nome, il tuo riferimento, è sempre un libro, un coffee book, come dicono, certo, che gira dappertutto, esatto, e che poi possono, i contatti nascono anche dal fare un po' è un tuo biglietto da visita che gira per il mondo. Adesso facciamo un'altra pausa, c'è un numero per chi vuole mandarci gli sms in diretta che è 345-84-30-228. Abbiamo già ricevuto prima un sms, ma ho tenuto un po' di suspense, da un amico che è Raffaele, a cui dedico il prossimo pezzo. Conosco i suoi gusti musicali, è un amico, e il prossimo pezzo si intitola True Rise ed è di un gruppo che, manteniamo la suspense, cosa dici Alessandro, facciamo partire la canzone senza dire di chi si tratta? Ed era la voce di James LaBrie dei Dream Theater. Torniamo in onda per l'ultimo blocco, ultimi pochi minuti di questa prima puntata di Sono Solo Nuvolette. Ospite Maurizio Manzieri. Parlavamo della tua produzione di copertine, parliamo della più recente, questa illustrazione con questo astronauta con le ali comparsa sulla prima pagina, sulla copertina di Asimov Science Fiction Magazine. Sì, certe, cioè, ci sono delle illustrazioni particolari, ecco, questa viaggia proprio sulla mia onda creativa, che è questa astronauta che è apparsa su Asimov. In effetti Asimov l'ha acquistata perché gli piaceva l'illustrazione, non è collegata a una storia che è inserita. Okay. L'illustrazione è nata, è stata realizzata in origine per la Delos Books, ed è ispirata, ed è proprio la copertina di un romanzo di Ursula Le Guin, Paradisi Perduti, in americano Paradise is Lost, ed effettivamente il personaggio è una donna cinese che racconta la sua vita all'interno di un'astronave generazionale in viaggio tra due pianeti, e lei è alata perché ci sono due fazioni, gli scienziati, gli angeli, eccetera. Questa copertina vive di vita propria perché ha vinto per Spectrum l'anno scorso, e uscirà come copertina per la Macmillan luglio 2015 sulla più importante una delle più importanti antologie di fantascienza di Gardner Dozois, la 32esima collezione della fantascienza. Quindi c'è un po' un piccolo segreto anche che mi sprona a fare creare eccetera. Io nasco ancora, cioè contemporaneamente alla mia passione da ragazzino di arte fantastica, anche come appassionato di letteratura. Ecco quindi per me, siccome Ursula Le Guin è una scrittrice che io adoro, di cui avevo già letto tutto ancora prima di sognare o immaginare che sarei andato a realizzare una copertina per lei, quando mi hanno chiesto, mi sono sforzato di farla gratis, perché un grande illustratore innanzitutto, anche un grande lettore quantomeno, se ci cimenta con la fantascienza, giusto? Sì, perché la fantascienza bisogna stare attenti, cioè per la maggior parte della fantascienza non è quella che io leggo, nel senso che io seleziono molto grandi scrittori che avrebbero potuto scrivere qualsiasi genere ma non la fantascienza, ma hanno scelto questo modo fantastico di esprimersi, perché molte volte in Italia c'è una accezione negativa, ma è fantascienza? No, non mi interessa, pensando che tutto quello che si vede al cinema o roba da fumetti eccetera, ci sono anche capolavori favolistici o letterari di fantasy eccetera, non è solo battaglie, astronavi, ma c'è fantascienza di introspezione psicologica, ricerca, è una letteratura di idee, esatto, nell'immaginario collettivo un po' quello, infatti molti registi che sono anche loro appassionati, certe volte contattano degli scrittori che diventano famosi, anche artisti, e vengono trascinati in avventure cinematografiche che traggono spunto da romanzi che magari il regista ha letto da ragazzo e che oggi stanno diventando tutti cicli famosi sia per le serie TV che in ambito proprio del grande di Hollywood. E in fatto di anticipazione, Arthur C. Clarke aveva anticipato un sacco di scoperte, tra cui I Satelliti, e poi scrisse un certo romanzo legato a un certo film di nome 2001 di Sia nello Spazio. Infatti, ma poi ci sono molti romanzi di Philip Dick, da Blade Runner, ma anche adesso ne stanno trasformando. The Man in the High Castle, Amazon ha lanciato un pilot che vogliono trasformare una serie TV. Questo è un altro interessante piece of news, nel senso Amazon è diventata produttore di serie televisiva e ha fatto una serie TV da Man in the High Castle, da noi noto come La Svastica sul Sole, di Philip K. Dick, che è la prima storia distopica in cui i nazisti hanno vinto la seconda guerra mondiale, quindi tutto il presente è completamente diverso. Ci sono altri scrittori di fantascienza classica per te che sono un riferimento? Sì, una marea. Io ho letto tutto, Robert Silver, Filippo C. Farmer, ma ce n'è anche recenti, da Peter Hamilton. Adesso c'è due romanzi che consiglio di leggere. Okay. Uno di Andy Weir, c'è il film The Martian, che è in produzione da parte di Ridley Scott, che è stato un bestseller l'anno scorso. Caspita. Ho letto anche la trilogia di Ben Winters, il primo romanzo si chiama The Last Policeman, sono veramente degli innovatori, delle idee bellissime. Last Policeman parla di mancano 6 mesi, la Terra sarà colpita da un asteroide, e un poliziotto appena nominato detective vuole per forza scoprire un assassino, un omicida, c'è un assassino, indipendentemente dal fatto che la Terra sarà distrutta tra 6 mesi. È molto bello, sviluppo dei personaggi, tutte queste sono pieni di idee di immaginarsi what if, cioè se uno si trovasse in queste situazioni. Sono scrittori che sono portati proprio. E quindi la letteratura fantastica, la letteratura di fantascienza, soprattutto anglosassone, è anche una delle tue influenze, è una delle basi, delle cose di cui parleremo in questa trasmissione, nel senso... Ad ampio spettro, perché poi il fantastico non è solo fantascienza, ormai c'è una fusione dei generi. Quindi certo, e infatti... Fantasy, anche il favola, anche... letteratura speculativa, un po' tutto. Ed è un po' di ciò di cui parleremo in questo programma, perché sono un po' radici culturali molto significative che a volte non ce ne rendiamo conto, ma sono alla base del moderno cinema blockbuster. Non ci sarebbe stato Star Wars senza Flash Gordon, senza Edgar Rice Burroughs le sue avventure di John Carter da Marte. E Star Wars tornerà al cinema per noi italiani a inizio 2020. 2016 per tutto il mondo a Natale di quest'anno con Episodio 7, da quando George Lucas ha ceduto alla Disney il franchise di Star Wars. Sono ancora le property intellettuali più importanti e sono ancora i marchi, le storie, le avventure che producono utile, che mantengono in vita l'industria, un'industria dell'intrattenimento internazionale, che è ciò di cui parleremo su queste frequenze. Grazie tantissimo a Maurizio Manzieri per essere stato con noi. Ciao a tutti. È stato come sempre molto interessante, ci sarebbe moltissimo in più da dire. Vi invito a fare un salto a trovarlo sul suo sito www.manzieri.com per tenere traccia della sua attività, poi è anche molto attivo anche su Facebook. E io sono Fulvio Gatti, ci vediamo martedì prossimo sempre alle 15, sempre su Radio Archimede. Vi lascio con un'ultima canzone, questa volta italiana, questa volta dedicata a un'amica che potrebbe starci sentendo in questo momento, ha contribuito all'ideazione del nome della trasmissione. È un pezzo di Ivano Fossati che si intitola La Bottega di Filosofia e noi ci sentiamo la settimana prossima. Sono un visionario, vedo quello che non c'è. Sogno una macchina che riavvolge il tempo.